Grazie Paolo, ringrazio le ragazze e i ragazzi del Leoncavallo per avermi dato questo onore stasera di essere qui a parlare di agricoltura. Io credo che, lo so, è una grande fatica, ma gli agricoltori devono continuare, devono uscire sempre di più dalle loro aziende, per loro, ma soprattutto per tutti i cittadini e per la società. Circa 4 anni fa, come organizzazione agricola, ci siamo svegliati un po' da un brutto sogno. Abbiamo iniziato un po' a guardare i dati delle aziende agricole nella provincia di Milano, ma anche di tutta la regione Lombardia, e abbiamo visto questo calo continuo. Nella nostra attività quotidiana di seguire le aziende agricole, curavamo molto la chioma, ma ci rendevamo conto di trascurare le radici. Il 51% della superficie agricola coltivata in provincia di Milano non è di proprietà di chi la coltiva, ma è proprietà di altri soggetti, i quali, la maggior parte dei quali, hanno interesse a che questi terreni cambino d'uso perché diventino più redditizi. Ci siamo meravigliati, forse un po' ingenuamente. Ingenuamente perché? Perché producendo cibo abbiamo detto: ma come mai questi rinunciano in questo modo così superficiale a una funzione importante dell'impresa agricola? Quindi il cibo oggi non è più necessario che lo si coltivi qui a Milano, in Lombardia. Ricordo che la Lombardia è la prima regione agricola dell'Europa e che il contributo della Lombardia è fondamentale alla produzione del cibo di tutta l'Italia, che è largamente deficitaria di cibo, deve importare grandi quantità. Quindi questa funzione che molti urbanisti, molti amministratori ritengono non più utile, mantiene tutta la sua necessità. Non solo, ma solo da qualche anno abbiamo capito che non basta avere i soldi o non essere una potenza economica per avere la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare. È vero che nel panorama europeo l'Italia è l'unica ad avere una visione così miope, perché Francia, Germania, Olanda non sono così diciamo, trascurati o distratti verso la propria agricoltura, la tutelano, la valorizzano con molta forza. Quindi sia la sicurezza in termini di qualità, ma in termini di quantità, questo non è più garantito. Ma l'altro aspetto molto preoccupante, qui mi dispiace che sia andata via la professoressa Bianchetti, perché questa è una responsabilità di come le professionalità agiscano ancora in modo separato. Cosa significa? Significa che quando si espropria un terreno, non si, oltre alla funzione produttiva che molti trascurano, ed è quella visibile perché diciamo, è sulla parte superficiale, viene ignorata colpevolmente tutte le funzioni che la terra esercita al di sotto, che non sono visibili. Quella più importante è la conservazione dell'acqua, il rallentamento che l'acqua diciamo, fa nel suo percorso verso i fiumi e verso il mare, quindi verso la perdita. Nessuno, diciamo, è passato un po' sotto silenzio quando dal 2003 al 2007 ci siamo trovati anche in Lombardia, a Milano, con forti problemi di approvvigionamento idrico perché le precipitazioni sono state scarse. Nessuno ha tirato in ballo il cattivo uso del territorio che se n'è fatto. Questo io credo che sia un aspetto fondamentale insieme alla produzione di cibo. Altro aspetto è qui io credo che l'iniziativa del Leoncavallo, ma quelle che noi stiamo facendo da 4 anni, quelle di sensibilizzare tantissimo l'opinione pubblica, i cittadini. Oggi non tutti si è perso il rapporto diretto fra luoghi di produzione e luoghi di consumo. Il cibo non è più visto come strettamente collegato al territorio, nonostante, ripeto, noi abbiamo una provincia e una regione fortemente agricola. Questo cosa significa? Significa che un signore un'ora fa a cui si è chiesto di dare un contributo per il comitato Notav, appena ha sentito ha detto no, io lavoro sulla tangenziale, se permettete io voglio continuare a prendere il mio stipendio. Questo cosa significa? Che nella nostra società qui a Milano si accetta quasi in modo scontato la contraddizione fra il successo economico, permettetemi questa parola, e la dispersione, lo spreco delle risorse naturali. Quindi siamo disponibili a rinunciare all'acqua, a rinunciare all'aria, a rinunciare a una terra che produce cibo per avere dei soldi per farne poi chissà che cosa, non si sa. Io credo che l'aspetto più importante a cui noi dobbiamo dedicarci è proprio questo creare il consenso nella cittadinanza e negli amministratori. Noi abbiamo cominciato da 2 mesi un percorso di appuntamenti che si sono rivolte prima ai cittadini e qui è stato molto positivo. I nostri incontri sono stati frequentati da centinaia di cittadini interessati che hanno scoperto l'agricoltura. Quando abbiamo fatto 2 incontri rivolti agli amministratori, agli operatori che fanno i PGT, non dimentichiamoci che il rischio forte che noi abbiamo, Expo o non Expo, è che i comuni si stanno approntando a fare i piani di governo del territorio e tutti i comuni, poi il sindaco sarà molto più preciso di me, stanno cercando di fare cassa con un pezzettino di territorio da vendere. E dicevo, in questi incontri dove ci sono esperienze di comuni anche virtuosi, dove si dimostra, dati alla mano, che uno sviluppo economico alternativo è possibile senza distruggere le risorse naturali, qui abbiamo avuto il deserto. Cioè i cittadini ancora sono venuti anche se non erano dedicati a loro questi incontri. Gli amministratori e i politici hanno disertato tranquillamente, ma non perché sapessero di cosa stavamo parlando, perché si rifiutano di ascoltare. A fianco a questi c'è un buon 20-30% di amministratori che secondo me, se informati adeguatamente su tutte le funzioni dell'agricoltura e sulla possibilità di servizi che l'agricoltura può dare, sicuramente potremmo fargli cambiare idea. Mi trovavo nel Mantovano, che insieme al Cremonese sta subendo un forte attacco. A Mantova si parla nel giro di qualche anno di 5.000 ettari in meno di territorio agricolo. E alcuni amministratori, quando abbiamo posto la questione del consumo del suolo, sono caduti così dalle nuvole, si sono avvicinati, ma è così drammatico il problema del consumo del suolo? Io non credo che fingessero o volessero prendermi in giro. Io ho verificato questo, la mancanza di conoscenza forte su questo problema. Quindi non voglio farla molto lunga. La questione qual è, secondo me? C'è una sensibilizzazione che sta crescendo. Nelle città l'agricoltura deve entrare sempre con più forza in città. A Milano, fino agli anni 50, c'erano due, a Gaggiano per esempio, ma anche in altri paesi, c'erano 2 mercati a settimana solo di formaggi, mi raccontano la storia dell'agricoltura milanese. Gli agricoltori venivano abitualmente a fare mercato in città. Questo però alcune aziende possono farlo, altre no. E anche qui intendiamoci sul chilometro zero. Io sono favorevole a parlare di filiera corta, cioè diminuire i passaggi che il cibo fa dal luogo di produzione al luogo di consumo. Questo io credo può portare dei vantaggi. L'altra roba è, ci sono tante aziende nel milanese come in Lombardia che hanno fatto la storia economica, culturale, del paesaggio di questa nostra regione. E le aziende da latte, che producono tanto latte, sicuramente ce ne sono tante che mettono il distributore, ma è tanto latte che va alla produzione di formaggi. La sola regione Lombardia, fra tutto l'indotto dell'industria agroalimentare, quindi produzione di formaggi, vino, ortaggi trasformati, frutta trasformata, dà lavoro a 200.000 addetti, che moltiplicata per componenti familiari, io credo che sia un numero di tutto rispetto e che garantisce l'eccellenza. Quindi sì, l'agricoltura di prossimità, dove noi possiamo andare direttamente in azienda o dove l'azienda viene in città, ma ricordiamoci che la storia di questa regione, la ricchezza di questa regione, e quando parlo di ricchezza, non c'è stata contraddizione fra ricchezza ed equilibrio delle risorse alimentari. Andare a guardare quello che l'agricoltura milanese e lombarda hanno significato per questo territorio, significa aziende che davano lavoro a 150-160 persone, era questo il numero che vivevano nelle cascine. Questa cascina trasformava direttamente il proprio prodotto, le tamava, restituiva sostanza organica ai terreni, quindi non sostanze chimiche, e attraverso il governo delle acque, quindi governo che significava prendere, regimentare le acque quando ce n'era troppa e conservarla per quando scarseggiava, si facevano 12 tagli di foraggio all'anno. Quindi questo è quello che ha assicurato la ricchezza a questa regione. Quindi io questo perché lo sottolineo? Perché molte volte sento indugiare qualcuno che va bene l'agricoltura piccola, di nicchia. No, ci sono regioni, dobbiamo rispettare la vocazione dei territori. L'agricoltura milanese e lombarda non è quella delle piccole aziende. L'altro aspetto che forse è il caso di far di mettere in evidenza, la Lombardia era considerata dai visitatori che sono venuti non in occasione dell'Expo, ma che venivano ad osservare il nostro sistema irriguo, che era il più perfetto d'Europa, era unico nel suo genere, e quando attraversavano le Alpi, gli Appennini, si trovavano di fronte al più bel giardino d'Europa. Così è stato definito da francesi, tedeschi e anche svizzeri, che oggi forse sono quelli che hanno il giardino più carino, come il territorio curato. Quindi io credo che, e questo è anche il mio stupore, perché cioè, arrivando da una regione del sud che forse per bellezze naturali è più dotata, venendo qui in Lombardia e conoscendo questo territorio che è stato costruito dall'uomo, dalle fatiche immani dell'uomo e delle donne. Allora, diciamo, qui viene un po' di rabbia, perché cioè, i lombardi e i milanesi sono i primi a non valorizzare questa loro storia e questa loro cultura. Quindi io credo che abbiamo tantissimo da lavorare. L'Expo, non voglio, anch'io voglio dire la mia sull'Expo. Io non uso il termine no Expo. Io sto andando a incontrare amministratori. Voglio per esempio che le 200 cascine dismesse o diroccate o che stanno cadendo nella provincia di Milano, vengano finanziate coi soldi dell'Expo insieme al mantenimento della terra, insieme alle cascine, perché questo è un patrimonio storico-culturale enorme. Ci sono cascine del 1400, 1500, 1600 che raccontano la storia e che possono essere utilizzate anche per i servizi alla città. Perché no? Perché se una cascina non ha più la stalla, si sta evolvendo il sistema produttivo lombardo e milanese, in armonia con la produzione e con la produttività dell'azienda ci può essere una sinergia con altri servizi. Io credo che dobbiamo andare in questa direzione, perché rischiamo veramente, veramente tanto, però dobbiamo confrontarci con tutti quei soggetti che direttamente determinano il destino di questa terra. E mi fermo qui, ecco, chiedendo ancora una volta di diffondere la conoscenza, di studiarla e diciamo, di amare questo territorio per quello che veramente significa. Grazie.